Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti i nostri ascoltatori e buona giornata da Deborah Rosciani. Il settore del no profit in Italia è molto ricco, molto vario, rappresentato da diverse realtà che operano nei campi più diversificati. Un mondo che vede l'impegno in prima linea di tante persone con obiettivi e fini meritevoli, pur essendo no profit, cioè senza fini di lucro, enti e associazioni però non possono non fare i conti con l'aspetto economico della loro attività. Infatti queste associazioni vivono grazie alle quote associative, a donazioni, a lasciti, talvolta anche con attività commerciali di autofinanziamento, i cui frutti devono essere quindi utilizzati unicamente per gli scopi dell'attività associativa. Un'altra modalità di finanziamento, sostentamento che tutti conosciamo è il 5 per 1000, ovvero la possibilità data a noi come contribuenti di destinare proprio una quota pari al 5 per 1000 del nostro IRPEF a enti no profit nell'ambito del volontariato, delle onlus, della promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute, come per esempio quelle sportive dilettantistiche. Il 5 per 1000 prevede anche il finanziamento della ricerca scientifica, delle università e della ricerca sanitaria. Per poter accedere alla devoluzione del 5 per 1000, naturalmente l'ente deve dimostrare di perseguire effettivamente obiettivi meritevoli. Per questo motivo sono state previste precise modalità di controllo e certificazione. Perché? Perché dietro al mondo del no profit meritevole di agevolazioni si nasconde anche un mondo molto profit con tante associazioni che potremmo definire fittizie, e questi temi ricorrentemente tornano appunto di attualità e ci ritornano proprio in queste settimane, sia per i contribuenti che già cominciano a fare un po' i conti con quella che sarà la loro dichiarazione dei redditi quest'anno e quindi magari cercano di individuare l'organizzazione o l'ente che è meritevole di ricevere la propria donazione, ma soprattutto per chi è attivo nell'associazione. Sa che partirà tra poco, esattamente la prossima settimana, il 15 marzo, la campagna 2011 per il 5 per 1000, cioè gli enti potranno iniziare ad iscriversi in un'apposita organizzazione, appunto in un'apposita lista, per rientrare negli elenchi di chi è autorizzato a ricevere i fondi. Allora, come fare a presentarsi a questo appuntamento con le carte in regola? Questa mattina esploriamo il mondo appunto del 5 per 1000 con due nostri consulenti. Intanto Giampaolo Concari, componente del Comitato Tecnico dell'Istituto Italiano della Donazione, che saluta e ringrazio di essere ritornato nelle nostre trasmissioni. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Deborah. È un gradito ritorno anche quello del nostro Nicola Forte, consulente tributario a Roma ed esperto di tematiche fiscali per il Sole 24 Ore. Forte, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora, naturalmente, come sempre, microfoni aperti per i nostri ascoltatori. All'800240024 potete chiamarci per togliervi le vostre curiosità sia sul funzionamento appunto della devoluzione del 5 per 1000, ma magari siete anche a capo di un'organizzazione che ritiene di avere il diritto di iscriversi appunto agli appositi elenchi per ricevere questi fondi. Come si fa ad avere le carte in regola? Stamattina i nostri esperti ci spiegheranno tutto. Ci potete anche scrivere al 349-238-6666 oppure all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. In rapidità la borsa che stamattina è negativa, la seduta è partita male dopo che Moody's ha fatto sapere di aver deciso di downgradare, si dice in gergo tecnico, ma insomma di abbassare di un gradino il rating sovrano, il giudizio sul debito sovrano della Spagna. Già lunedì lo ha fatto con la Grecia, ieri poi è intervenuta sulle banche greche e oggi tocca alla Spagna. L'Europa, dicevamo, è negativa, è proprio Madrid la peggior piazza, perde oltre un punto, abbiamo -0,59 adesso per Parigi, Francoforte -0,77, Londra -0,92, Milano -0,88%. I titoli più penalizzati sono Fondiari, ancora in ribasso, -3%, e qua abbiamo ancora una speculazione che sul titolo non conosce frenata, appunto perché si deve risolvere ancora la soluzione della vicenda Groupama, di questi azionisti francesi appunto che vogliono salire nel gruppo assicurativo. STM -3, risente dei conti di Texas Instruments. Lottomatica -2,34, Finmeccanica -2, Azimut -2%. Autogrill miglior titolo, guadagna 1,5 punti, TOTS +1,35, Ansaldo +1,32%. Oggi sembra darci un po' di tregua il il versante del petrolio, anche se è ancora su valori piuttosto alti, perché siamo a $104 al barile a New York, quasi 105, 116 e mezzo invece il Brent a Londra. Euro su dollaro a 1,38,27, e questo è il quadro della borsa di questa mattina. Adesso andiamo subito al tema di oggi, parliamo del 5 per 1000. Il settore del no profit in Italia è molto ricco e rappresentato da realtà che operano nei campi più diversi. Da qualche anno a questa parte, per finanziare il volontariato, lo sport dilettantistico, la ricerca scientifica e molto altro, il contribuente può destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF a un'organizzazione a sua scelta. Ma come deve fare un'associazione o un qualsiasi ente no profit per essere inserito nella lista dei possibili beneficiari? La campagna 2011 per il 5 per 1000, che parte il prossimo 15 marzo, prevede una modalità telematica che permette di candidarsi direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate. La scadenza è il 30 aprile per gli enti della ricerca scientifica e sanitaria, mentre volontariato e associazioni sportive hanno tempo fino al 7 maggio. Gli elenchi degli enti abilitati verranno pubblicati il 14 maggio in una forma provvisoria e il 25 nella versione definitiva, permettendo nel frattempo eventuali correzioni. Naturalmente l'ente dovrà dimostrare di essere in regola e perseguire effettivamente obiettivi meritevoli, con una vita associativa trasparente e corretta, che non nasconda alcun tipo di redistribuzione, anche indiretta, di utili. Sempre per questo motivo, è necessario per gli enti associativi che scelgono il regime di decommercializzazione, privo di imposte sui redditi e IVA, presentare il modello EAS. Con questa procedura, la cui scadenza è stata prorogata dal decreto mille proroghe fino al 31 marzo, gli enti forniscono tutte le informazioni che attestano il regolare svolgimento della loro attività e che potranno essere verificate da eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Salutiamo intanto il collega del Sole 24 Ore, Mauro Meazza, che è venuto a trovarci a Salvadanaio, così, ma è proprio di passaggio, non interverrà questa mattina, però le tematiche di cui parliamo oggi probabilmente l'ha vista molte volte su questo giornale. Parliamo di 5 per 1000 oggi, caro Mauro, quindi stai ad ascoltarci attentamente. Allora, Giampaolo Concari, componente del Comitato Tecnico dell'Istituto Italiano della Donazione, prima di spiegare un po' l'ABC anche alle organizzazioni che fossero interessate a questi fondi e quindi come fare a mettere le carte in regola per poter partecipare a questa devoluzione, magari ricordiamo a chi non lo conosce affatto qual è la storia di questo istituto in Italia, che non ha moltissimi anni e poi in passato è stato anche al centro un po' di polemiche, perché una volta che i contribuenti avevano deciso come destinare loro 5 per 1000, per la verità non tutte le organizzazioni prescelte hanno ricevuto seduta stante questo denaro. C'è stato tutto il famoso problema del trasferimento di queste risorse a quello che viene definito in Italia il terzo settore. Sì, esatto. Diciamo che dopo una partenza un po' in sordina, adesso i tempi tutto sommato si sono stabilizzati abbastanza, ecco. Certo che per chi questi fondi li aspetta, come ovviamente in modo molto così ansioso, perché da questi fondi dipende praticamente tutta una serie, dipendono tutta una serie di investimenti successivi nell'attività di queste organizzazioni, chiaramente quando è che arrivano sempre tardi. Infatti. Però, l'altro, no, non abbiamo dato neanche le cifre, ricordiamo che, lo ricordava la collega agli inizi di marzo, Valentina Melis, sulle 24 ore, si attesta stabilmente sui 400 milioni di euro la quota del 5 per 1000 dell'IRPEF che i contribuenti destinano ogni anno a tutto il comparto del no profit, alla ricerca scientifica e sanitaria e alle attività sociali, per cui anche una volta spartita, anche se ad ognuno va una fetta molto piccola, sono comunque molti, molti soldi che appunto a volte vincolano sensibilmente la sussistenza anche di certe organizzazioni. Nicola Forte, consulente tributario in Roma, è il nostro esperto fiscale di questa mattina, perché per le organizzazioni che hanno bisogno appunto di essere assistite anche dal punto di vista fiscale. Quali sono le carte in regola per potersi presentare alla gara di questa devoluzione? Effettivamente è necessario che l'ente, l'associazione sia no profit e quindi in sostanza vengano osservate tutta una serie di regole che qualificano, che caratterizzano questi enti. In primis lo scopo non lucrativo, e quindi il divieto di distribuire utili, sono tutte indicazioni, previsioni che devono essere riportati negli atti costitutivi e negli statuti, che sono le regole che governano questo mondo no profit, che devono essere osservate ovviamente non solo sotto il profilo formale, cioè non è sufficiente indicare nello statuto che vi è un divieto di distribuire utile o che la finalità di quell'ente è una finalità no profit istituzionale, quindi non di tipo commerciale, ma è necessario che poi in concreto, nella pratica, le previsioni dello statuto siano in concreto attuate. La circostanza poi però non vuol dire che questi enti non possano in concreto svolgere anche attività commerciali, è importante, essenziale che queste attività commerciali siano marginali, siano sussidiari, siano il mezzo per ottenere dei finanziamenti e quindi per realizzare quelli che sono i fini istituzionali. Ma se sono esclusivamente finalizzate proprio al perseguimento delle attività sociali dell'organizzazione, e questo è facilmente dimostrabile? Beh, sotto questo profilo non ci sono problemi. E ripeto, abbiamo diverse tipologie, la realtà è molto variegata. Se l'ente svolge esclusivamente un'attività non profit, non di tipo commerciale, allora, e ovviamente la sostanza corrisponde alla forma, come dicevo, le indicazioni statutarie, sicuramente è un ente che ha tutte le carte in regola per partecipare alla devoluzione del 5 per 1000, a condizione ovviamente di rispettare tutte le condizioni previste dalla legge e dai regolamenti di attuazione. Infatti, e tra l'altro ci sono anche delle novità introdotte dal decreto mille proroghe, di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione. Il messaggio è: non è che una mattina la polisportiva di Casal Pusterlengo si alza e dice faccio richiesta per essere iscritto all'elenco dei beneficiari del 5 per 1000, e questo ovviamente perché anche a tutela dei contribuenti che sostengono queste attività. Profili e statuti immacolati, comportamento immacolato. E allora da tutto questo ripartiamo nella seconda parte del programma. Peraltro ogni anno vengono anche pubblicati gli elenchi degli enti abilitati, e quindi anche su questo ci intratteremo appunto con i nostri ospiti. È proprio la materia soprattutto di Giampaolo Concari. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Vedo già tanti ascoltatori che si stanno prenotando, questo ci fa molto piacere. A tra pochissimo. Oggi parliamo del mondo del no profit, un tema abbastanza curioso per Salvadanaio. Ma perché? Perché questo è un settore che viene ogni anno sostenuto anche dal punto di vista finanziario, con delle scelte precise da parte dei contribuenti italiani che devolvono il 5 per 1000 della propria IRPEF a queste organizzazioni, alla ricerca scientifica, anche ad organizzazioni sportive, alla ricerca sanitaria, alle attività sociali. E allora noi ne parliamo questa mattina perché naturalmente le organizzazioni che possono ricevere queste risorse non sono organizzazioni a caso, devono avere dei precisi requisiti, e la prossima settimana parte la campagna 2011 per il 5 per 1000. Tutti gli enti che vorrebbero attingere a questa opportunità potranno iniziare ad iscriversi per rientrare negli elenchi di chi è autorizzato a ricevere fondi. Giampaolo Concari, componente del Comitato Tecnico dell'Istituto Italiano per la Donazione. Tra l'altro, proprio di recente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi definitivi dei beneficiari del 5 per 1000 2009, quello che è stato raccolto 2 anni fa. Sì, esatto, il 28 febbraio sono stati pubblicati questi elenchi, e riguardano le dichiarazioni dei redditi presentate nel 2009 riferite ai redditi 2008. Che tipo di spaccato è emerso da questa pubblicazione? Ma alcune, diciamo così, conferme circa le organizzazioni che raccolgono la maggiore quantità di fondi. Una tra tutte, proprio stamattina ho fatto un paio di conti, visto e considerato che è presente in tutti e tre gli elenchi principali, quindi ricerca scientifica, ONLUS e ricerca sanitaria. Per esempio è l'AIRC che percepisce una fetta abbastanza consistente, insomma. Quindi la ricerca contro il cancro. Benissimo, certo. Allora ci sono davvero tante curiosità che i nostri ascoltatori si stanno ponendo relativamente a questo mondo, e adesso noi li cominciamo a far intervenire e poi continueremo anche con i nostri ospiti a spiegare aiutarvi, non abbiamo per la verità ancora iniziato. Come si fa ad accedere a questi fondi se si è un'organizzazione che ritiene appunto di essere meritevole di poter usufruire di queste risorse? Come si fa ad avere le carte in regola? 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Allora ne sentiamo qualcuna e continuiamo anche con i nostri ospiti. Eugenio da Roma, buongiorno. Buongiorno, complimenti alla vostra trasmissione alla radio e ai vostri ospiti, un saluto particolare. Grazie. Una curiosità, le organizzazioni sindacali, in considerazione che fanno anche il modello EAS, hanno possibilità di essere inserite in questo elenco? Grazie Eugenio. Concari, torno da lei. No, perché non sono considerate ONLUS, organizzazioni di volontariato, né tantomeno ricerca scientifica, eccetera. Quindi non sono nel novero delle organizzazioni destinatarie. Benissimo. In verità collegate alle organizzazioni sindacali, magari ci sono delle associazioni, mi pare per esempio l'Auser, ma anche ce ne sono altre, adesso non ricordo, che sono molto vicine agli ambienti sindacali. Sono dei bracci operativi che magari si interessano di determinati settori, come l'assistenza agli anziani in questo caso, quindi bisognerebbe verificare se hanno appunto il presupposto per poter essere riconosciuti enti meritevoli appunto della devoluzione del 5 per 1000. Il sindacato vero e proprio non può entrare. Allora, Nicola Forte, prendendo spunto la domanda che ha fatto Eugenio da Roma, ha detto le organizzazioni sindacali, visto che presentano il modello EAS, mi stavo chiedendo se appunto possono essere anche queste riconosciute come enti meritevoli di ricevere quanto si raccoglie con il 5 per 1000. Che cos'è questo modello EAS? Beh, è un modello EAS, è un modello che raccoglie una serie di dati che sono stati individuati con un apposito provvedimento, dati che sono necessari per fare una mappatura, un monitoraggio degli enti associativi che solitamente appunto sono delle realtà che il legislatore ha ritenuto meritevoli di agevolazioni fiscali, ovvero di detassare le cosiddette entrate istituzionali. E quindi è un modello che consente al fisco di avere preventivamente una serie di indicazioni e quindi meglio articolare e individuare soggetti a rischio da controllare. Ad esempio sono indicate in questi modelli OEAS le modalità di convocazione degli associati, che possono essere di tipo individuale o di tipo collettivo, no? È frequente il caso, l'ipotesi in cui un ente associativo nel proprio statuto indichi che la convocazione delle assemblee cui hanno diritto a partecipare gli associati vengano effettuate le convocazioni attraverso l'apposizione presso la bacheca del circolo dell'associazione dell'avviso di convocazione. Questo elemento è percepito in alcuni casi, ovviamente non sempre, da parte del fisco come un elemento di rischio, nel senso che non è ipotesi purtroppo rara la circostanza che gli associati che dovrebbero essere associati effettivi, cioè che partecipano alla vita associativa, che partecipano all'assemblea, che hanno diritto ad eleggere gli amministratori, in realtà sono associati fittizi che molto spesso non hanno neanche conoscenza di questi atti, di questi eventi all'interno dell'ente associativo, e quindi il modello EAS raccoglie questa indicazione proprio per monitorare tutti gli enti meritevoli. Avevo trovato una relazione con il decreto mille proroghe, ma è stato introdotto quest'anno questo modello o il mille proroghe ha introdotto delle novità relativamente alla sua compilazione? No, il modello nasce da un provvedimento del 2008, i termini di presentazione sono stati modificati, via via prorogati, si era arrivati ad esempio al 31 dicembre 2009, probabilmente alcuni enti associativi anche disinformati o non correttamente informati hanno messo l'adempimento e quindi una finestra sempre aperta, e da ultimo il decreto mille proroghe ha appunto prorogato fino al 31 marzo la possibilità di presentare questo modello, perché in caso di omissione le conseguenze sono veramente rilevanti. Pensate che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di omessa presentazione del modello EAS si perdono tutti i benefici fiscali, quindi anche l'ente associativo che ha solo quote associative, quindi entrate istituzionali, l'Agenzia delle Entrate ha specificato perde queste agevolazioni e diventano proventi tassabili. Perfetto. Allora, c'era un ascoltatore che adesso non credo che riusciremo a fare intervenire, ma mi incuriosiva la sua domanda ancora prima di quelli che sono già in linea, Maria da Roma e Paolo da Siracusa, a cui chiedo solo un minutino di pazienza. Un ascoltatore chiedeva se era possibile avere un elenco con la percentuale di ripartizione delle aziende che aderiscono alle 5 per 1000. Allora, esattamente questo tipo di indicazione negli elenchi che abbiamo detto prima, Gianpaolo Concari, quelli che sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, è così precisa? Allora, gli elenchi sono si possono consultare appunto presso nel sito dell'Agenzia delle Entrate e sono variamente compilati, nel senso che si possono vedere gli elenchi in ordine di scelte, quindi chi ha preso di più a decrescere, da chi ha preso di più a decrescere, in ordine del codice fiscale, così, ma non vengono date percentuali. Non è possibile fare statistiche se non rielaborando quegli elenchi, che peraltro sono abbastanza lunghi. Infatti si può fare un lavoro successivo. Allora, c'è Antonio che ci scrive al 349-238-6666 perché non si lasciano in tasca i contribuenti. Guardi Antonio, che forse non abbiamo capito, qui si tratta di una scelta volontaria, nessuno sottrae niente a nessuno, quindi sono i contribuenti che quando fanno la dichiarazione dei redditi, così come possono fare la scelta dell'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, così come per un'altra confessione, possono decidere di devolvere il 5 per 1000 della propria IRPEF, che invece che andare allo Stato va appunto ad un'organizzazione che si sceglie di sostenere, può essere un'organizzazione appunto che le famose Emergency, Save the Children, ce ne sono tante, le organizzazioni appunto che si occupano della ricerca sul cancro, come abbiamo sentito, Medici Senza Frontiere, ce ne sono tante, ma ci sono anche quelle più piccole, quella per esempio la polisportiva vicino casa nostra, che magari ha un'organizzazione di tutto rispetto e anche in questa maniera viene finanziariamente sostenuta. Allora, 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Andiamo alla riflessione, alla domanda che volevo proprio sentire da un po' di Paolo da Siracusa, che è il presidente di una Onlus. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Ci dica. Allora, intanto vi ringrazio perché mi date la possibilità di chiarire un dubbio che mi è sorto la settimana scorsa, proprio dopo la pubblicazione degli elenchi. Noi finalmente con la mia associazione di volontariato siamo riusciti per la prima volta ad essere ammessi e presenti. Paolo, che cosa fa di bello la sua organizzazione, la sua associazione? Noi ci occupiamo della famiglia, infatti l'associazione si chiama Il Difensore della Famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, in particolare di quelle famiglie che hanno proprio problemi anche nelle dinamiche familiari eccetera, ma anche può capitare nei quartieri un pochettino a rischio. Organizziamo degli eventi, un dopo scuola presso una parrocchia, diciamo, qui di Siracusa. Insomma, facciamo tante piccole cose e questi soldi per noi sarebbero una miniera. Ora, proprio avendo visto la settimana scorsa che siamo presenti nell'elenco che hanno appena pubblicato, però mi dicono che abbiamo avuto 51 scelte. Ora, capita che uno dei nostri soci lavora in un CAF e sappiamo con certezza che da quel CAF sono partite almeno una settantina di preferenze. E un'altra socia della provincia di vicina qua di Ragusa, che ha un familiare che è un commercialista, altrettante scelte ci ha assicurato che le ha viste con gli occhi suoi. Io la chiedevo, un'associazione eventualmente che volesse poter verificare ha una possibilità di avere chiarito cosa è successo? Cioè, ma adesso qui non so Paolo se ci rientra anche un po' il tema della privacy, per andare a verificare se effettivamente queste persone che assicurano di aver fatto questa devoluzione poi l'hanno materialmente compiuta questa scelta, e quindi se è possibile verificarlo personalmente. Non so se appunto sussistano problematiche relative alla privacy o a che cos'altro. Comunque, insomma, un'osservazione molto intelligente. Lui dice, insomma, a me è arrivato almeno il 50% di quello che avevo matematicamente in mente di poter ottenere per sostenere la nostra organizzazione. Cosa è successo? Soprattutto posso fare dei controlli che non ci sia stato qualche errore, perché è chiaro, magari qualcuno ha anche sbagliato la compilazione della dichiarazione dei redditi, ma percentualmente qua ci balla qualcosa. Allora le faccio rispondere dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Eccoci ritrovati in diretta. Un attimo prima di andare avanti con la nostra trasmissione, una informazione di servizio. Vi ho ricordato ieri che il 6, il 7 e l'8 aprile c'è la nuova edizione del Salone del Risparmio Gestito, organizzato e promosso da Assogestioni. In vista di questo appuntamento, noi di Salvadanaio, con la collaborazione di Assogestioni e il Salone del Risparmio, abbiamo istituito un servizio di segreteria telefonica 800 28 12 12, dove ci potete lasciare le vostre domande su che cosa vorreste chiedere al vostro consulente in tema di risparmio gestito. Registratele, lasciatele registrate, noi vi risponderemo a partire da lunedì con i nostri esperti. Allora, Gianpaolo Concari, ha sentito il caso del nostro presidente di questa Onlus di Siracusa? Sì, sì, ho sentito, in effetti molte organizzazioni sarebbero ben liete di capire, di avere qualche dato statistico per poter poi fare delle operazioni di sollecitazione di potenziali donatori. Il caso è abbastanza emblematico e anche emblematico, interessante. Un po' anche inquietante, sembra un po' la storia del, mi pare che fosse nel Gattopardo, no? Che è sul plebiscito, invece, ma io ho votato contro, no? Tutti hanno votato a favore. No, perché magari qualcuno può anche dire sì, io ti ho fatto la mia devoluzione, può essere non vero, ma qui diciamo c'è un 50% di margine. Potrebbe esserci anche una ragione tecnica del tipo, non tutte le dichiarazioni producono 5 per 1000, perché eventualmente la dichiarazione che si chiude con un saldo imposte zero, saldo imposte zero a causa di detrazioni, un incapiente non può fare questa devoluzione, esatto, sostanzialmente, ecco. non genera 5 per 1000, quello potrebbe essere una risposta tecnica, però considerato il numero così elevato, in effetti qualche dubbio mi sorge. Magari me, se vi interessa, diciamo al nostro ascoltatore di scriverci un po' più dettagliatamente il suo caso, se lo volete commentare personalmente, così se volete togliervi anche la curiosità. Però il tema, lui dice, io posso andare a verificare magari singolarmente le dichiarazioni dei redditi per vedere se effettivamente questo numero a cui io pensavo può tornare nei miei conti, o si pone un problema anche di privacy. Nicola Forte, vorrei sentire anche la sua opinione, se ne ha una su questo caso. Ritengo che al di là poi del problema di privacy sia anche un problema materialmente di procedura, cioè è un profilo così nuovo dove io ritengo che laddove le istanze sicuramente corrette e giuste del presidente della Onlus dovessero essere ascoltate dagli uffici, io poi gli uffici hanno tutto standardizzato, cioè ci sono delle procedure che vengono normalmente seguite, quindi io, essendo un profilo diciamo tra virgolette di anomalia, dubito che l'ascoltatore possa essere ammettendo che lui raccolga tutte le dichiarazioni dei redditi che accertino effettivamente il numero che lui sostiene di devoluzioni che gli sono arrivate, appunto di scelte che sono state fatte, come fa poi a mettersi in conflitto con, non lo so, con Cari, con l'Agenzia delle Entrate, con chi si dovrebbe mettere anche a contestare il fatto che con l'Agenzia delle Entrate, visto che è il braccio secolare di questa operazione. Infatti, però, anche insomma, perché è da tenere presente che il 5 per 1000 non sono fondi dello Stato, l'Agenzia delle Entrate è un intermediario necessario per questa forma di donazione, di erogazione liberale, perché questo lo ha confermato anche la Corte Costituzionale alcuni anni fa. Il 5 per 1000 non sono fondi dello Stato, ma sono fondi dei contribuenti che l'Agenzia delle Entrate ridistribuisce, certo, in funzione di questa operazione. E quindi comunque non è che certo ha nessun tipo di interesse a fare una redistribuzione in un certo modo piuttosto che in un altro, solamente veramente un intermediario. Allora, rapidamente, ci rimangono poco più di 3 minuti prima di chiudere la nostra trasmissione. Siccome vi è piaciuta molto, vi prometto che ci tornerò al più presto. Sentiamo Gabriella dalla provincia di Milano per Nicola Forte. Gabriella, rapidissima, grazie. Sì, rapidissima. Allora, appunto, mio figlio fa uno sport, frequenta un'attività, una società sportiva di baseball, è uno sport minore, di conseguenza ci sono poche sponsor, eccetera. Volevo sapere quali sono le caratteristiche che deve avere la società sportiva per fare domanda, appunto, per poter ricevere questa, anche se pur poco, insomma, questo 5 per 1000. Grazie, Gabriella. Lo sai che questa trasmissione è nata proprio su questa sollecitazione. Nicola Forte che mi ha detto, ma lo sai quante organizzazioni polisportive ci sono, per esempio, che vorrebbero attingere a queste risorse e non hanno idea da dove cominciare? Nicola Forte, visto? Che aveva ragione. La legge 289 del 2002 ha per la prima volta fornito una qualificazione anche ai fini fiscali delle società e associazioni sportive. In buona sostanza si considerano tali quelle società, associazioni sportive che hanno i requisiti individuati espressamente dall'articolo 90 della legge 289, cioè devono svolgere un'attività sportiva dilettantistica, devono avere uno statuto in regola nel senso che contenga una serie di clausole che impediscano la distribuzione degli utili, perché anche gli enti sportivi sono enti no profit, e soprattutto per essere qualificati tali è necessario affiliarsi a una federazione, quindi nel caso specifico la federazione relativa al baseball e al softball, e iscriversi presso il registro del CONI. Questo è un ulteriore passaggio assolutamente fondamentale, importante, perché molto spesso si ritiene che l'affiliazione a una federazione sportiva, ovvero a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, come ce ne sono tanti, esaurisca ogni obbligo. Invece è necessario un ulteriore passaggio che avviene attraverso un'autocertificazione. Il CONI gestisce questo registro, è un registro telematico, quindi l'iscrizione è esclusivamente online, e questo registro è necessario per ottenere un riconoscimento che si qualifica riconoscimento a fini sportivi. A questo punto io ho acquisito lo status di associazione sportiva, rispettando anche nella sostanza tutte queste che sono clausole statutarie o obblighi di altra natura, e quindi posso accedere sicuramente all'indicazione, all'iscrizione negli elenchi del CONI. Ottimo, volevo rassicurare i nostri ascoltatori che in particolar modo Nicola Forte è a disposizione poi per rispondere anche alle vostre mail, visto che stamattina non riusciamo più a rispondere a telefonate, quindi continuate pure a scriverci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. se tutti i parametri che Nicola Forte ci ha indicato fino adesso ne avete perso qualcuno, ve li riscriviamo appunto correttamente, ma anche con tutti i termini di legge necessari a conoscersi appunto per poter accedere ai benefici delle 5 per 1000 come organizzazione, come associazione. Purtroppo ci dobbiamo già fermare, abbiamo la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Oggi l'INPS ci spiega nelle parole della previdenza che cos'è la riscossione della pensione, lo sappiamo bene, ma insomma ribadiamo un po' di concetti. È possibile in qualsiasi momento cambiare l'ufficio dove si riscuote la pensione. Il pensionato può scegliere qualsiasi altro ufficio pagatore del territorio nazionale o di paesi esteri. La richiesta di trasferimento può essere inoltrata, attraverso appositi moduli, direttamente allo sportello dove si riscuote la pensione, oppure alla sede INPS più vicina. I titolari di più pensioni devono presentare un'unica domanda. Se lo si desidera, si può delegare una persona di fiducia per riscuotere la pensione. La delega può essere richiesta all'INPS al momento della domanda di pensione, oppure successivamente. La firma del pensionato deve essere autenticata dal funzionario dell'INPS, che riceve la domanda, o dalle altre autorità indicate nell'apposito modulo. L'INPS rilascia una copia della delega al pensionato per la riscossione delle rate giacenti e d'ufficio comunica i dati del delegato all'ufficio pagatore per le rate successive. Salvadanaio, anche per oggi termina qui. C'è un ascoltatore che al 349-238-6666 ci scrive: grazie per non avermi risposto, non so neanche quale sia la sua domanda tra le centinaia di messaggi che ci arrivano sempre dagli ascoltatori, le prometto che la recupero e vedo che cosa ci aveva chiesto appunto, e quindi cercheremo di aiutarla. Con Nicola Forte che saluto, grazie, a presto, buona giornata. Grazie, e anche a Giampaolo Concari, alla prossima, buona giornata. Grazie a voi tutti e arrivederci. Chiedo a Maria di Roma e Laura da Pisa di scriverci, se hanno pazienza, salvadanaio@radio24.it, e risponderemo loro attraverso il nostro sito di posta elettronica, la nostra posta elettronica. Grazie, a domani.